Il senso dell'iniziativa è quello di portare nel dibattito elettorale il tema del regionalismo differenziato e della sua essenza di grave pericolo per il sistema sanitario pubblico in Emilia-Romagna e in Italia. Quindi noi chiediamo che le varie liste si confrontino su questo tema e molto chiaramente diciamo che per noi l'obiettivo è il ritiro della proposta di regionalismo differenziato avanzata dall'Emilia-Romagna e la richiesta al Parlamento di non accettare le richieste avanzate da Lombardia, Veneto e da quant'altri vogliono farlo in futuro. Ecco, lei ha citato le regionali, i due principali contendenti, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, in realtà sono favorevoli al regionalismo differenziato. Purtroppo sì, questo è. Noi riteniamo invece di voler far sentire a loro e a tutti gli altri candidati, soprattutto i cittadini, l'esigenza di recedere da questa proposta che sostanzialmente non risolve i problemi della sanità ma li aggrava. Basta un secondo mettere gli occhi nel merito della proposta, in sostanza. Quali sono i principali problemi che genererebbe? Intanto tutti abbiamo sperimentato come le normative che regolano l'accesso ai servizi sanitari nelle varie regioni siano diverse una dall'altra e anche i costi di accesso sono diversi uno dall'altro e quindi questo determinerebbe delle grandi discriminazioni in tutta Italia. Nell'ambito del regionalismo differenziato, per esempio, le regioni chiedono anche di avere autonomia normativa in tema di tariffe, di ticket e quindi di partecipazione dei privati cittadini al pagamento delle prestazioni, il che genererebbe un ulteriore costo per i cittadini che sarebbe sostenuto quando stanno male invece che a carico della fiscalità generale, come è giusto per un servizio che punta alla solidarietà. Inoltre, nella fase attuale abbiamo una carenza assoluta di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e anche dei singoli servizi sanitari regionali ed è illusorio ritenere che questo grande problema nazionale sia affrontabile regione per regione invece che unendo le regioni per avere un maggiore stanziamento da parte dello Stato centrale. Questo problema è enormemente grave per le regioni del sud ma è importantissimo anche per l'Emilia Romagna e per le regioni del nord perché l'Italia tra tutti i paesi occidentali è quella che spende di meno per il servizio sanitario nazionale, al di là questo delle caratteristiche di dimensione privata o pubblica dell'assistenza. Lo Stato centrale spende per la sanità in Italia meno di quanto spendono gli altri stati europei e occidentali. E questo è un problema anche per le regioni ricche, che si traduce nelle liste d'attesa, nelle esigenze di avere più servizi, eccetera, i quali quando vai a realizzarli ovviamente costano. Non è che si possa promettere di fare, ho sentito recentemente, di riaprire i punti nascita senza tener conto del fatto che questo ha dei costi che vanno affrontati, per i quali vanno predisposte delle risorse che non possono essere recuperate strettamente nell'ambito regionale. Quindi anche per le Emilia Romagna, un problema di sottofinanziamento si pone, nonostante il fatto che sia una delle regioni più finanziate in Italia sul tema della sanità. Voi terrete questo incontro al centro Giorgio Costa, perché non in una struttura sanitaria? Perché per tenere un intervento di questo tipo da parte di un'associazione come la nostra, che non ha dietro le case farmaceutiche, ci sono state chieste dalle 400 alle oltre 800 euro per la giornata e noi non possiamo affrontare queste spese che vanno ad aggiungersi poi a tutte le altre, la promozione dell'evento eccetera. E inoltre abbiamo poi difficoltà anche a far sapere ai dipendenti e ai pazienti delle strutture sanitarie l'esistenza di queste iniziative, perché questo tipo di iniziative vengono, come dire, selezionate in negativo al momento di essere diffuse dentro alle strutture sanitarie. C'è un controllo molto stretto. Questo penso che sia un gravissimo problema di democrazia, perché poi impedisce alla cittadinanza e a chi tra di esse esprime valutazioni critiche di venire a contatto e di lavorare nei luoghi di lavoro del servizio sanitario. Credo che sia un problema anche per i sindacati, sostanzialmente star chiusi nel loro fortino e non consentire alle voci esterne di venire nelle strutture specifiche delle USL per discutere di politica sanitaria. È un problema che andrà risolto assolutamente a Bologna, come in tutta l'Emilia Romagna e come in tutta l'Italia. È come un problema, per esempio, che il regionalismo da solo non può risolvere, perché è un problema di carattere nazionale. Voglio sottolineare l'importanza delle presenze di tutti, ma in particolare del professor Villone e del professor Cavicchi, che sono voci assolutamente autorevoli nel panorama italiano della riflessione rispettivamente sulla Costituzione e sulla sanità pubblica. È un momento per gli operatori e per i pazienti, gli interessati alle questioni sanitarie, di farsi avanti. Segnalo anche anche il fatto che la presenza del Comitato per la Scuola è assolutamente importante, perché è coinvolta anche l'università nel tema del regionalismo, e proprio in questi giorni ci sono manifestazioni di protesta per i tagli alla istruzione universitaria, che francamente sono intollerabili e che non potrebbero e non potranno essere risolti regionalizzando i rapporti con l'università.